questo venerdì 2 marzo le banche al centro dell'apertura del Sole 24 Ore, alta le commissioni, banche in rivolta e anche Repubblica, le banche contro Monti. Lo ripeto questo titolo, le banche contro Monti, accusato di essere fin dall'inizio il governo dei banchieri, eccolo qui, sembra quasi il colmo dei colmi, le banche contro Monti. Allora, e poi la TAV ancora al centro dei vari giornali, per il Corriere della Sera TAV vertice per la linea dura, il Fatto Quotidiano, i no TAV occupano il PD, partito ad alta velocità, Libero, tutte le balle sulla TAV, La Stampa, TAV, blocchi in tutta Italia, Il Messaggero, no TAV, interviene il governo. E vedete, anche Avvenire sulle banche, la rivolta delle banche. C'è chi invece mette la scomparsa di Lucio Dalla, caro amico è il titolo dell'Unità, e caro Lucio ti scrivo, questo è il titolo più gettonato per il Secolo XIX. Voglio partire da una storia che racconta molto dello stato dell'Italia. La raccontano Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che tornano a firmare insieme sulla prima pagina del Corriere della Sera, e riguarda i bronzi di Riace. Tante volte lo stato di un paese si può anche verificare dal modo in cui cura o non cura i propri capolavori, il proprio patrimonio artistico e culturale. 3 anni da precari per i bronzi di Riace. Questo è il titolo dell'articolo di Rizzo e Stella in prima pagina del Corriere. Se finisce come con la vecchia cartolina che celebrava il ponte di Messina, stiamo freschi. Addio ponte, resta solo la cartolina. Anche i bronzi di Riace hanno avuto la loro cartolina celebrativa per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma sono ancora sdraiati nell'androne del Consiglio regionale perché il loro museo, che doveva essere riaperto il 17 marzo 2011, è ancora chiuso. Ecco qui, sdraiati in attesa del nuovo museo, i 3 anni da precari dei bronzi di Riace, poi un'intera pagina, pagina 33, la storia appunto dei bronzi di Riace, che sono di fatto a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. Lì sono stati portati, dopo un lungo dibattito, per essere messi nel museo apposito, ma e qui sono sorti i problemi. Sulle prime, scrivono Stella e Rizzo, sembrò andare tutto benissimo, traslocati i dipendenti in 7 appartamenti sparsi per la città, trasferiti i bronzi e il resto della splendida collezione a Palazzo Campanella in un deposito, l'impresa incaricata di ristrutturare il palazzo e consolidarlo con tutte le garanzie antisismiche, la COBAR, lavorò a ritmo forsennato, fino a 250 operai, geometri, manovali, capimastri. Trafficavano febbrili per mesi, per 3 turni al giorno, notti comprese, anche il sabato, la domenica. Pareva fatta. Pareva che stavolta la maledizione del Sud, incapace di rispettare i tempi, fosse sconfitta. Poi di colpo finirono i soldi. Dice qualche altissima linguaccia ministeriale che è successo quel che succede sempre. Rincari, rincari, rincari. Secondo invece la sovrintendente, no. Non è così, su consiglio degli esperti sono state via via aggiunte opere non previste, la bellissima copertura di vetro del cortile interno, la climatizzazione speciale che offre alle statue la massima garanzia, la camera dove i visitatori dovranno fermarsi 1 minuto per essere igienizzati prima di entrare nella stanza. Fatto sta che i quasi 18 milioni di euro iniziali sono finiti, l'impresa si è trovata in rosso per 6 milioni, a un certo punto, visto che i soldi non arrivavano, ha piantato lì tutto e se n'è andata. E così il museo è di fatto non terminato e i bronzi di Riace stanno lì, un po' tristi, in un deposito di Palazzo Campanella, Regione Calabria, in attesa di avere la collocazione giusta, ideale, e che meritano anche. E vabbè, questa è la storia di Stella e Rizzo in prima pagina del Corriere della Sera. Un'altra storia invece davvero incredibile, che però ha un lieto fine, sì, ma lieto fine, ma dopo 30 anni, è raccontata dalla Stampa, che già la raccontò qualche tempo fa, è la vicissitudine di un ex ambulante che dopo 30 anni, si chiama Martino Scialpi, la racconta pagina 26 oggi la Stampa, dopo 30 anni, pensate, si è visto riconosciuto il fatto di aver realizzato un 13 al Totocalcio. È da 30 anni che era stato accusato di truffa, perché era stato accusato di aver rubato, vi ricordate le vecchie schedine nella quale c'era un bollino che si metteva sopra che a legittimare il fatto che quella schedina è stata giocata in modo originale. Era stato accusato di aver rubato a forza dalla ricevitoria il bollino e di averlo di aver giocato la schedina dopo praticamente le partite e quindi aver mai fatto 13 per questo e aver messo un bollino originale per averlo, dopo averlo rubato. Nel 1981, ora Martino Scialpi è felicissimo, racconta Carmine Festa sulla Stampa, ma non sa ancora come festeggiare l'incasso per il 13 al Totocalcio azzeccato 30 anni fa. Ora il CONI è stato condannato dal Tribunale di Roma a pagare 2.343.924,58 euro a questo signore che però dice ho perso tutto, la famiglia, il lavoro, facevo l'ambulante, ma con tutte le udienze di questi 30 anni come facevo a fare l'ambulante? Ho dovuto cambiare lavoro. Mi è costata tantissimo questa storia, ho perso la pace, ho perso la famiglia, ho trascorso più tempo in tribunale che altrove, l'ho pagata, ci ho rimesso tante cose, ho subito una cosa indegna per un cittadino italiano. Se uno ammazza una persona si fa 30 anni ma poi è finita, torna libero, io invece no. Sono e sarò ancora alle prese con questa storia che ora si annuncia a lieto fine, ma quante amarezze. Aveva giocato questa schedina 30 anni fa. Ora finalmente ha avuto giustizia, il suo avvocato Donato Muschio dice «L'ho assistito per 30 anni, ma ora chiederemo oltre ai 2.343.000 euro a cui è stato condannato a pagare il CONI, chiederemo una cifra sui 13 milioni di euro per i danni». Accidenti! Insomma, ci ha messo 30 anni, ma questo 13... plurimilionario alla fine rischia di pagare davvero tantissimo. Beh, complimenti. 24 mattino. Siamo qui alle 7:35 minuti. Allora, certamente le proteste contro la TAV le trovate analizzate su tutte le prime pagine dei giornali. L'apertura per molti quotidiani. La situazione dal punto di vista politico è questo. Il Premier Monti ha deciso che bisogna porre un freno a tutto questo. Oggi ci sarà un vertice a Palazzo Chigi, questo è il titolo del Sole a pagina 18. Monti, oggi vertice a Palazzo Chigi, ancora blocchi, raccontano nell'articolo Filomena Greco e Maria Chiara Voci di quello che ormai sono proteste degenerate un po' in tutta Italia, i blocchi, cortei non autorizzati a Bologna, a Roma, dove c'è stata anche l'occupazione, avete sentito, della sede del Partito Democratico da parte di una trentina di manifestanti. A Brescia, in Piazza della Loggia, alla stazione, tensioni ieri a Milano, un corteo che è arrivato alla stazione di 200 manifestanti, poi è andato verso un centro sociale, disordini in Calabria, in provincia di Cosenza, con l'occupazione dei binari, blocco dei treni, stessa scena a Napoli, cortei di protesta a Bergamo, Trieste, 300 manifestanti a Firenze, a Genova, Ancona, Perugia, Trento, Padova, bloccata nel pomeriggio in Sicilia l'autostrada Palermo-Catania. Ecco, allora si capisce subito che non è una questione di TAV o no TAV. È chiaro che dal pretesto delle manifestazioni no TAV qualcuno dell'area antagonista sta cercando di creare dei disagi, dei blocchi in tutta Italia. Appunto, questo vertice a Palazzo Chigi, c'è Liana Milella su Repubblica, pagina 1, analizza quella che è la strategia messa a punto dal premier Mario Monti. È stato sentito ripetere più volte a Bruxelles Mario Monti sulla TAV, le leggi e gli impegni già assunti devono essere rispettati. Una pausa e poi il premier ha detto con la TAV si va avanti. E poi ancora, quasi tra sé e sé, qualsiasi forma di violenza non è ammissibile. Da qui l'idea di fare un vertice. C'è stato anche ieri una telefonata tra il capo dello Stato Giorgio Napolitano, riferisce Repubblica, e il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, un magistrato di grande esperienza per il suo lavoro su mafia e terrorismo. Qualche giorno fa, lunedì, lo avevamo qui ai nostri microfoni, ricordate, anche al centro di dure critiche da parte del movimento, lo stesso Caselli. l'idea anche del ministro Cancellieri, ministro all'interno, è c'è disponibilità al dialogo per chi manifesta pacificamente, ma fermezza nel far rispettare la legalità nella decisione di non rinunciare alla TAV. Questa dunque sarebbe la linea del governo, con il Corriere che annuncia che il ministro Cancellieri starebbe pensando anche, e lo trovate a pagina 3, starebbe pensando di estendere dal punto di vista della legge i cosiddetti DASPO, cioè quei provvedimenti che vengono utilizzati per impedire ai tifosi violenti di partecipare alle manifestazioni sportive, bandirli dagli stadi praticamente, una sorta di DASPO, questo divieto di accedere alle manifestazioni sportive introdotto anche per chi viene beccato, non so, per esempio a bloccare un'autostrada. E questa sarebbe l'idea, misure come per gli ultra per fermare gli assalti. Giampaolo Pansa invece su Libero è durissimo e scrive: qui in Val di Susa stanno nascendo i nuovi terroristi. Mentre vedete sul Manifesto che da giorni, ieri ne parlavamo anche con Valentino Parlato, da giorni il Manifesto propone una teoria ben diversa, si discosta moltissimo dalla linea di quasi tutti i giornali. Leggere per credere il reportage di Ezio Bertoc a pagina 2 e 3 del Manifesto, scrive così: ieri la giornata era dedicata alla cura delle ferite e a riflettere su come rilanciare la protesta, alla ricerca di una risposta capace di offrire uno sbocco nell'immediato guardando lontano. Una signora ultrasettantenne che ha respirato i gas e assaggiato i manganelli dice che ha avuto una paura folle. Oppure il ragazzo arrestato ieri dopo gli scontri si ricorda la sua fragilità che gli ha impedito di schivare i manganelli e tutto il resto. Bussoleno per lui è come una famiglia e gli sarà vicino. I notav che promettono non sarà finita certo questa notte, potete scommetterci. E ancora la definizione di un amico di quel Marco Bruno, quello che dava della pecorella, ma io ribadisco, adesso tutti si concentrano sulla pecorella, però dava soprattutto degli stronzi ai carabinieri che erano lì. Chi è Marco? Dice un amico, è un padre di famiglia di un magnifico bimbo di 2 anni, un lavoratore che non si risparmia, un notav falsusino da sempre. Nella pausa pranzo di martedì corre insieme a tanti altri a Chianocco per tentare di resistere al migliaio di forze dell'ordine che sgomberavano l'autostrada. La rabbia è tanta, ma Marco non perde la testa, non fa gesti inconsulti, scarica la sua rabbia con qualche parola rivolta a chi in quel momento sta calpestando per l'ennesima volta la dignità di una popolazione, cioè le forze dell'ordine, invadendo in modo violento la valle dove Marco è nato e cresciuto. E poi l'accusa è questa: le TV hanno ripreso solo quella scena della pecorella, degli stronzi, ma Marco in realtà ha parlato poi per 10 minuti con l'uomo armato in modo tranquillo e pacato, fino a quando lo ha salutato per tornare al lavoro a stomaco vuoto, e quindi insomma anche ha fatto un digiuno gandiano, dicendogli comunque vi voglio bene lo stesso. Questa però nessuna TV lo ha fatto vedere. Questa il resoconto sul Manifesto della giornata di ieri. Vabbè, insomma, la situazione è certamente molto tesa. Il Fatto Quotidiano invece si concentra su cosa? Per il secondo giorno consecutivo sugli affari, e l'accusa neanche tanto velata è questa: perché soprattutto da sinistra il Partito Democratico è a favore della TAV? Forse perché il più grande ruolo, il ruolo guida nell'operazione Torino-Lione verrà fatto dalla CMC di Ravenna, perché la cooperativa Muratore Cementieri, fondata nel 1901 dai 35 manovali, oggi un gigante delle costruzioni con centinaia di soci, migliaia di dipendenti, un fatturato di 800 milioni di euro, che nel corso della Prima Repubblica ha prosperato come braccio armato del sistema di potere economico targato Partito Comunista, e oggi è diventata una potenza autonoma nel business del cemento. Prima, come tutte le cooperative rosse, prendeva ordine dai vertici di botteghe oscure, oggi invece i leader di centrosinistra devono limitarsi a un atteggiamento di deferente simpatia verso una grande realtà economica con la quale condividono radici antiche e recenti. Insomma, Giorgio Meletti, a pagina 2 del Fatto Quotidiano, scrive: il ruolo guida è di questa cooperativa, la CMC di Ravenna, la cooperativa Muratore e Cementiere di Ravenna, che da sempre è vicina al centro-sinistra. Per questo si chiede il fatto, forse il PD, e soprattutto per questo è a favore di quest'opera. Sta di fatto, ne parleremo anche con Roberto Cota, governatore del Piemonte, ospite alle 8.20. Ieri era al Viminale a incontrare insieme al sindaco di Torino Fassino il ministro Cancellieri. Oh, poi invece c'è il fronte politico. Il fronte politico fa registrare il sì alle liberalizzazioni al Senato, ora si arriverà alla Camera, e d'altronde Monti è arrivato lì, ha posto la fiducia e dunque 1700 emendamenti spazzati, il sì appunto con le 141 modifiche contenute nel maxi emendamento sulle liberalizzazioni, il decreto che ora si scompone di ben 118, si compone di 118 articoli da passare alla Camera, sto leggendo dal resoconto di Rossella Bocciarelli a pagina 6 del Sole 24 Ore. E poi c'è la protesta delle banche. Allora, io dicevo prima, ironizzando, un po' sembra il colmo dei colmi, no? Il giornale titola così: banchieri no global, barricate contro Monti. Straordinario oggi è Altan, la vignetta di Altan in prima pagina di Repubblica. A parte che il titolo di Repubblica, le banche contro Monti. Cioè, avreste mai pensato, cari ascoltatori, di leggere un articolo sul governo Monti accusato da molti di essere filobanchieri, filobanche, il governo delle banche? Avreste mai scommesso di leggere prima o poi un titolo le banche contro Monti? E oggi c'è Altan, c'è uno che va da Monti e dice i banchieri si dimettono, e Monti, chi ci manca da fare incazzare? E sta di fatto che è così, cioè i vertici dell'ABI, l'associazione appunto bancaria italiana, si sono dimessi, protestano che cosa? Su una norma in particolare, ma in realtà il presidente Mussa le dice è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma la norma è quella che sancisce la nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte delle concessioni di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche in caso di sconfinamento, ovvero oltre il limite del fido. Per effetto di tale disposizione, scrive ancora Rossella Bocciarelli sul Sole, in pratica gli affidamenti, gli sconfinamenti concessi dalle banche ai clienti potranno essere remunerati esclusivamente con il tasso debitore sulle somme prelevate. A nulla è valsa la rassicurazione del sottosegretario Catricalà, che ha detto guardate che sono pronte già delle modifiche alla Camera. Gli istituti di credito, le banche sono in rivolta. E allora leggete a pagina 7 del Sole, sempre Rossella Bocciarelli, si dimettono i vertici dell'ABI. La norma sulla nullità delle commissioni bancarie è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco, questa è la spiegazione del presidente dell'ABI Mussari nel corso di un'affollata conferenza stampa convocata ieri mentre al Senato è in corso la votazione sulla fiducia al maxi emendamento, ha annunciato che l'intero comitato di presidenza dell'associazione dei banchieri si dimette alla prossima riunione martedì prossimo. E insomma, oh, che dobbiamo dire? Da governo delle banche a governo contro le banche? Chi lo sa? Intanto continua il giallo, da cui ripartiamo dopo il traffico, il giallo sul tetto agli stipendi dei manager pubblici. Io tutti i giorni vi massacrerò su questo, cari ascoltatori. Chissà se arriverà. Oggi c'è un nuovo piccolo giallo. Allora, sul tetto agli stipendi pubblici, ora che il provvedimento è passato alla Camera, dopo l'approvazione del Senato, le commissioni affari costituzionali e attività produttive della Camera hanno sospeso le votazioni sul decreto semplificazione, lo leggo dal Corriere della Sera, pagina 8, per l'esame degli emendamenti rinviate alla prossima settimana. Ma c'è un piccolo giallo, manca ancora un emendamento, proprio quello lì. Manca l'emendamento che riguarda il tetto delle retribuzioni dei manager della pubblica amministrazione, che sta suscitando molte polemiche. Il ministro Patrone Griffi dice andremo avanti, andremo fino in fondo, il tetto lo fisseremo a circa 300.000 euro lordi, per la precisione 294.000, equivalenti allo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione. Ma in realtà uno dei relatori del decreto, Stefano Saglia del Popolo della Libertà, ha detto l'emendamento in questione è ancora oggetto di dibattito. Stiamo riflettendo se presentarlo oppure no. E staremo a vedere. Allora, ci sarà questo tetto ai manager pubblici. Settimana prossima forse ci sarà la risposta definitiva. Intanto la politica si muove con Silvio Berlusconi, che dice e non esclude la grande coalizione per il 2013. Ieri a Bruxelles ha risposto a qualche domanda e ha detto non esclude la grande coalizione possibile nel 2013, cioè PDL, PD e centristi, terzo polo. Secondo Giuliano Ferrara, riportato dai vari giornali, Berlusconi vorrebbe in qualche modo sciogliere il Popolo della Libertà e lanciare un nuovo cartello dei moderati dallo slogan Tutti per l'Italia. Ovviamente c'è subito Bersani che ha detto di no, Casini che dice di sì, al PD c'è subito fermento perché dicono è un errore lasciare il centro e l'idea del moderatismo a Berlusconi. Però certo, questa frase di Berlusconi ha riaperto un po' tutti i giochi. Poi ha anche detto una frase abbastanza impietosa nei confronti del segretario del Partito del Popolo della Libertà, Alfano, perché alla domanda sarà lui il candidato del Popolo della Libertà nel 2013, insomma candidato premier, gli manca quel quid, ha detto Berlusconi, no? Gli manca il quid di Alfano. E poi ha aggiunto gli manca la storia. Insomma, non un bel endorsement per Alfano da parte di Berlusconi. La Padania, guardate come titola, ovviamente stroncando questa ipotesi di grossa coalizione, la Padania in prima pagina del quotidiano della Lega: prima di Berlusconi c'era arrivato Mussolini. L'ex premier propone un'ammucchiata per tagliar fuori le opposizioni come nel 1924, una grande coalizione che cancella la democrazia. E c'è la scheda del listone del 1924 del Partito Nazionale Fascista. Insomma, Berlusconi propone una cosa che già fece Mussolini. Questa è la lettura della Lega con la Padania. Allora, devo segnalare rapidamente intanto un'intervista che Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, insieme al direttore di altri giornali internazionali, ha fatto a Vladimir Putin alla vigilia delle elezioni. Putin: nella mia Russia non userò la forza, credo nella democrazia. Una lunga intervista che parte dalla prima pagina di Repubblica e va a pagina 2 e 3, parla anche di Monti, definito un kamikaze ma per il bene dell'Italia. Vi invito alla lettura perché comunque il leader alla vigilia del voto, insomma una grande intervista a un quotidiano italiano come altri quotidiani internazionali. Vladimir Putin parla con Repubblica. Segnalo poi l'articolo di Franco Bechis su Libero. Sorpresa, l'USI ha pagato anche Renzi. Attenzione, la vicenda dell'ex tesoriere della Margherita. Franco Bechis, vice direttore di Libero, ha scoperto che l'USI in passato, l'ex tesoriere finito nello scandalo, ha versato 122.000 euro nel 2009 al sindaco di Firenze. Per che cosa? Per sostenerlo politicamente. Sta di fatto che, scrive Bechis, è strano e curioso che proprio Renzi abbia preso le distanze subito quando è emerso i contorni dello scandalo di Lusi, ha preso le distanze dallo stesso Lusi. Sta di fatto che nel 2009 fondi per 122.000 euro dall'ex cassiere della Margherita, ora indagato, finirono al candidato sindaco di Firenze. L'articolo trovate a pagina 13. Poi, che dire, io ho tralasciato, ma perché sono sconfinate le dediche, gli articoli, i ricordi per la scomparsa di Lucio Dalla, che trovate ovunque, la tragica scomparsa di uno dei più grandi cantautori italiani. Vi segnalo solo alcuni interventi. Renzo Arbore fa un ricordo sul Sole 24 Ore, caro amico di clarinetto, questo è il titolo. Ricorda il momento dell'incontro, lo guardai, riconobbi un bambinetto che mi toccava ogni tanto intrattenere quando da Bologna arrivava a Foggia la modista Ferrari. Lui era figlio di quella signora Ferrari che nel dopoguerra arrivava nelle case delle signore pugliesi con una grande valigia, si trascinava dietro un bimbo piccolo che divenne poi Lucio Dalla. Tutto il ricordo della carriera da parte di Renzo Arbore, che poi conclude: più di ogni altra cosa Lucio era un poeta. I grandi cantautori del Novecento, come De André, Gino Paoli, Lucio Dalla, non sono semplici parolieri, ma veri poeti che andrebbero studiati a scuola. Lucio, con le sue canzoni, faceva piccole operazioni di cultura anche quando sembravano canzonette. Sentiremo molto la sua mancanza. E come è accaduto ad altri grandi, come Totò, verrà scoperto e riscoperto tristemente solo dopo la sua morte. Ma comunque di Lucio Dalla trovate tantissimo, anche il Graffio di Iena. E vorrei lasciarvi con questo, pagina 3 della Stampa. Intimi. Ieri abbiamo scoperto che tutti i politici erano amici intimi di Lucio Dalla. Il giornale radio.